Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunta in regia per questa puntata di A Tempo di Sport, che sarà in gran parte dedicata a ciò che sta succedendo in Scozia, perché c'è Scozia-Italia, terza tappa del Sei Nazioni. Prima di andare a Murrayfield vi do molto rapidamente i parziali in Serie B all'inizio del secondo tempo, 28esima giornata. Ascoli 2 Avellino 0, il Brescia in vantaggio 1-0 a Frosinone, il Bari in vantaggio 2-0 a Mantova e 2-2 nel derby emiliano tra Modena e Parma, Rimini 2 Ancona 1, a Salerno Piacenza 1, Salernitana 0, a Treviso Sassuolo 3, Treviso 1, Triestina 1, Pisa 0 e il Cittadella in vantaggio 1-0 a Vicenza. Questi parziali di B, più tardi parleremo anche di sci, di pallavolo con il segno di Zorro, di calcio, di tutto questo, ma adesso è tempo di rugby. Peroni illumina la tua voglia di rugby. Vi presenta Palla Ovale. Io andrei subito a Murrayfield, dove c'è Dario Ricci, nostro inviato. Ciao Dario. Ciao Carlo, buonasera agli ascoltatori. Decimo della ripresa, Scozia 16, Italia 3, questo è il punteggio finora a Murrayfield. Gli azzurri ora sono in avanti a circa 10 metri dalla linea di meta scozzese, ma ecco l'apertura verso Mirko Bergamasco, che prova ad aprire il gioco sulla sinistra. Pratichetti chiuso dalla linea difensiva degli scozzesi, arriva però questa volta il supporto giusto e allora il pallone è sui 5 metri dalla meta, riapre ancora McLean, Griffin prova a innescare Gonzalo Canale, siamo ancora sui 7-8 metri dalla meta scozzese, Griffin ancora cambia versante di gioco verso Bortolami, ancora la percussione di Bacchetti, Bacchetti chiuso ancora dalla difesa scozzese, ancora McLean per Della Pelle, l'intervento di difensori scozzesi, c'è il passaggio errato di Bacchetti, allora la Scozia riesce a recuperare il pallone, peccato, era veramente una buona occasione, ma è stato solo l'ultimo di una serie di errori che hanno condizionato tutta la gara degli azzurri, Carlo, e fra poco andremo un po' a riepilogare quello che è stato il tabellino finora, ma insomma un'Italia che sta sprecando una grossa occasione, direi, per quello che si è visto finora in campo. La Scozia è veramente, come si confermano del resto anche i pronostici della vigilia, la squadra più vicina alla nostra, certo, in questo Sei Nazioni, e anche l'andamento della gara, adesso c'è una touche a favore degli scozzesi, l'andamento della gara l'ha dimostrato, perché a rompere l'equilibrio iniziale, anzi il leggero predominio azzurro nella fase iniziale con due belle percussioni di Parisse e poi anche dello stesso Pratichetti, bene, a rompere quell'equilibrio è stato un po' un episodio, sono stati due calci di punizione di Patterson che partiva dalla panchina, lo ricordiamo tutti questo Chris Patterson, che è uno dei più grandi calciatori al mondo e che già ci aveva fatto piangere la notte di quel settembre 2007 nella Coppa del Mondo a Saint-Étienne, quando la Scozia ci eliminò dalla Coppa del Mondo. Ebbene, Patterson oggi si è ripetuto, è entrato per una sostituzione temporanea al posto dell'infortunato Godman, ebbene tra il quarto e l'undicesimo ha piazzato due punizioni che sono valse per gli scozzesi il 6-0. Poi c'è stato quell'inedito drop di Parisse al 22esimo, ma poi di nuovo un piazzato scozzese, quindi la meta, Dario, la meta della Scozia. Esattamente, gli azzurri, devo dire, hanno faticato a riprendersi da quel doppio, da quell'1-2 di Patterson, è arrivato questo ben poco ortodosso drop di Capitan Parisse, però un'azione a quel punto l'Italia ha cercato di capitalizzare quella sterile pressione che pure si era fatta, aveva esercitato fino a quel punto, allora il drop di Parisse estemporaneo, ma che comunque ha portato in cascina i primi tre punti. Poi c'è stato un errore, un'altra punizione anche oggi molto fallosa, la squadra azzurra al 20esimo, l'errore di Godman, a quel punto è rientrato per Patterson e però Godman poi non ha fallito l'altra occasione che ha avuto al 30esimo, e poi al 35esimo, come sottolineavi Carlo, la meta di Danielli, che già in precedenza un minuto prima era stato particolarmente pericoloso sulla destra, questa volta l'estremo scozzese, anzi non l'ala destra, scusate, scozzese, è riuscito con una bella combinazione, sfruttando una bella combinazione al centro, a trovare il buco giusto nel varco difensivo, nello schieramento difensivo azzurro, e poi in meta trasformata da Godman, e sul finire del primo tempo poi marcato ha fallito l'occasione di ridurre le distanze fallendo un calcio di punizione praticamente dalla linea di centrocampo. Certo. Dunque questa è la cronaca di ciò che sta succedendo a Murrayfield. Siamo al 53esimo. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti. Direi poco di nuovo sotto il sole, direi, Giacomo. Un'Italia certo, che non mi sembra che abbia fatto progressi, continua a litigare col pallone. Direi di sì, abbiamo sentito anche l'analisi di Dario su cui non c'è nulla da eccepire. Abbiamo visto molti errori degli azzurri di trasmissione del pallone, ma anche nei calci di spostamento sembrava che l'Italia si volesse affidare soprattutto a questa tattica nel primo tempo, avendo anche tre persone che questi calci di spostamento li potevano fare, McLean, Marcato e Griffin, ma molti calci sono stati sbagliati, da sottolineare in particolare la giornata non brillante di Marcato, che infatti all'inizio del secondo tempo è stato sostituito da Rubini. Si vede anche un gioco poco vario degli azzurri, con tante fasi ma pochissimo avanzamento. E si è vista una squadra disposta a difendere, una squadra che ha mostrato carattere, questo sì, però sulla meta c'è stata una difesa insufficiente da parte degli azzurri. D'altronde la meta è stato forse il momento più alto di questa gara, con una giocata di qualità da parte della Scozia, ecco, giocate di qualità che invece agli azzurri purtroppo mancano. Non è una partita finita, ecco, una meta dell'Italia in questo momento la riaprirebbe totalmente. Sì, però l'inerzia non dice questo, Giacomo, un'Italia che comunque non riesce a cambiare passo, che comunque commette un sacco di errori banali nel trattamento del pallone, errori che siamo ormai purtroppo abituati a vedere. Una considerazione generale può essere questa: mi sembra un'Italia terribilmente concentrata sulla difesa, esclusivamente concentrata sulla difesa, un'Italia che quasi non riesce ad applicarsi nel gioco offensivo. Sì, una squadra molto prevedibile sicuramente, e non è purtroppo una novità, è una cosa che si è andata definendo nel corso. Scusa, Giacomo, di queste partite delle nazioni, andrei a Murrayfield, esatto. perché possiamo accorciare. Dario Ricci. Sì, c'è stata la punizione di McLean da 26 metri e questa volta realizzata, quindi altri tre punti per gli azzurri, quindi Scozia 16, Italia 6. In un paio di occasioni in precedenza McLean aveva scelto di giocare, quindi di calciare in touche per cercare la meta, ma ha visto anche quanto sottolineava Giacomo, è bene comunque cominciare a capitalizzare le occasioni da punto, proprio perché la partita è tutt'altro che chiusa. Se certo non entusiasma sotto il profilo tecnico la prestazione degli azzurri, il punteggio ci dice Scozia 16, Italia 6. Siamo appena al 55esimo, quindi direi che la storia di questa gara è ancora tutta da scrivere, Carlo. Grazie Dario Ricci, naturalmente rimaniamo in argomento, adesso ci fermiamo per il traffico, poi torniamo a concentrarci su questa partita, poi ovviamente mentre la guardiamo e mentre ve la raccontiamo parliamo anche d'altro, perché oggi ad esempio c'è stato un ottimo piazzamento di Blardone nello sci, nel gigante, torniamo sul podio. Dunque, io chiedo anche il vostro intervento, il vostro contributo, come sempre, come ogni sabato, come ogni domenica, come ogni programma di Radio 24, 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, questi i nostri contatti, quest'ultimo per i messaggi SMS naturalmente. Un'ultima considerazione con Giacomo Bagnasco, con cui poi avremo modo di commentare comunque questa partita. 57esimo, Scozia 16, Italia 6. Giacomo, quest'Italia mi sembra tanto le nostre del pallone, non segniamo mai. Sì, ecco, c'è anche questo da dire. In questo caso poi l'ha notato anche Dario, ci sono state anche poche occasioni per andare a segnare punti. Sì. Occasioni da meta quasi nulle, e invece gli scozzesi hanno saputo capitalizzare, hanno avuto qualche punizione a disposizione e hanno centrato i pali. Ecco, non è una grande squadra la Scozia di oggi, comunque una squadra che nelle prime due partite è riuscita a rimanere in gara con la Francia e con il Galles. Ieri abbiamo visto questo Francia-Galles a partita eccellente, sì, vinta dai francesi, che hanno interrotto una serie di 8 vittorie consecutive del Galles nel Sei Nazioni. Ecco, se la Scozia ha tenuto abbastanza testa a queste formazioni, io credo che non sia un caso. Ricordiamo che purtroppo dopo, se vogliamo, proprio il Galles e la Francia in questa serie a Roma saranno le avversarie dell'Italia nelle ultime due gare del Sei Nazioni. E francamente, essere ottimisti diventa complicato. Ci sentiamo più tardi con Giacomo Bagnasco. Un ultimo rapidissimo flash da Murrayfield. Dario Ricci, cosa sta succedendo adesso? Siamo al 18° del secondo tempo, risultato ancora fermo sul 16-6 per la Scozia. Intanto un paio di sostituzioni però tra gli azzurri: Cannavosio per Griffin e Del Fava per Bortolami, se vedo bene. E quindi insomma Malet prova ad inserire forze fresche, intanto è proprio Cannavosio che calcia in profondità ad esplorare la profondità dello schieramento difensivo scozzese, ma ancora l'up and under dei giocatori scozzesi, e fase di gioco ora centrocampo, ancora la Scozia però che ha la meglio, riesce in una percussione centrale a guadagnare metri su metri. Ancora Blair ora che riapre per il numero 16 Hall, e ancora però gli azzurri che riescono a chiudere. Gli scozzesi provano ad allargare sulla destra, tentano una combinazione al centro e poi fischia Owens, probabilmente si mischia con l'inserimento azzurro. Anche in questo caso è stato un errore della mediana scozzese a bloccare l'offensiva dei padroni di casa. 16-6 per la Scozia quando siamo al 16° di gioco qui a Murrayfield. È l'Italia degli stopper, questa è l'Italia che non riesce a fare meta, è l'Italia che non riesce a fare gol nel calcio. Parleremo anche di quello più tardi. Dario Ricci resta collegato con noi, ma adesso vorrei aprire la parentesi scistica con Dario Puppo. Ciao Dario. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Io direi di partire da Canesca Gora, che dici? Da questo terzo posto di Blardone torniamo sul podio nel gigante, ed è senz'altro una buona notizia di giornata questa. Certamente, insomma, il secondo podio che arriva in questo fine settimana, c'è stato anche quello di Nadia Fanchini, sì, che ha dimostrato di trovarsi bene su queste piste nuove di Bansko in Bulgaria. La cosa significativa è stato quello che ha detto Max Blardone comunque all'arrivo dopo la seconda manche, guardando in camera. Ha detto mollare mai, questo è il concetto, diciamo, in questo momento dello sci italiano. Però c'è un dato, Carlo, guardando i risultati del gigante, dopo la vittoria di Tomba nel 1995 nelle finali di Bormio, che gli ha dato la classifica generale per la prima volta, ha vinto la Coppa di Cristallo, da lì ci sono state 7 stagioni in cui l'Italia non ha vinto in gigante. Dopodiché, grazie soprattutto a Blardone e Simoncelli, c'è stato almeno un successo per 5 inverni consecutivi, e questo potrebbe essere il primo inverno senza successo in gigante dopo 5 stagioni invece che almeno ce n'è stato uno, sì. Quindi questo è un dato che bisogna considerare. Ipotici sono stati, però se togliamo Max Blardone ci viene meno la squadra di gigante praticamente. Oggi Ploner ha disputato una buona prima manche, poi nella seconda meno bene. Simoncelli non si è qualificato per la seconda e quindi non lo vedremo alle finali di ore nel gigante, anche perché in questa stagione c'è da dire che c'è più concorrenza nelle varie specialità, ci sono tanti atleti più 400, come si dice in gergo, che hanno possibilità di gareggiare in tutte le prove alle finali di ore in Svezia. Insomma, ci manca qualcosa rispetto al passato in gigante. D'altronde è l'unica disciplina di quelle più importanti in cui non abbiamo vinto in stagione. Sì. È cambiata un po' la composizione, insomma, degli atleti nelle squadre, però io penso che è salita sì la concorrenza, soprattutto degli svizzeri che hanno vinto la maggior parte delle gare di gigante di questa stagione. Però effettivamente è un podio incoraggiante per Max Blardone. Vede da troppo lontano ovviamente il discorso della classifica di specialità, però io direi che è molto positivo. Liget oggi era immarcabile, per usare un termine calcistico, nella seconda manche. Sì, Liget immarcabile davanti a Kusch, appunto terzo Blardone. C'è stato il repeat anche della libera a Bansko, e ha vinto Fischbacher. Fanchini stavolta non c'entra al podio, soltanto quinta, però tutto sommato possiamo accontentarci di quello che citavi prima di ieri. Per quanto riguarda invece lo sci stretto, andiamo un po' a corrente alternata. 30 km la femminile, la Follis nona, dopo la delusione della staffetta di ieri, Dario. Diciamo che soprattutto per chi non segue magari attentamente le gare e che ha visto un crescendo da parte del rendimento delle azzurre, in particolare che hanno vinto 3 delle 4 medaglie, il dispiacere sta nel fatto che abbiamo cominciato bene questi mondiali e adesso con gare che erano anche abbastanza favorevoli, la staffetta maschile, anche se poi era difficile, un'incognita in alternato, le gare lunghe sono di buona tradizione per noi, va detto che ci aspettavamo qualcosa in più effettivamente, però oggi meglio di così non si poteva fare. La folla è stata splendida e quasi commovente nel riagganciarsi grazie a un'azione della Sevchenko che l'ha riportata sotto, però insomma alla fine le altre avevano qualcosa in più, soprattutto la Kowalczyk che ha vinto una medaglia d'oro, la seconda per la Polonia in questi mondiali. Certo, tutti quanti sicuramente pensano al fatto che non riusciamo a sfatare questo tabù nella staffetta maschile mondiale, abbiamo vinto il titolo olimpico a Pragelato, però insomma anche con qualche polemica che poi è stata un po' per fortuna insomma spenta dallo stesso Zorzi, anche perché domani potrà gareggiare nella 50, restiamo ai piedi del podio. Sì, non c'è niente da fare nei mondiali. Grazie Dario. Grazie, grazie Dario Puppo. Adesso quell'altro Dario ad Edimburgo per un altro aggiornamento non positivo, l'impressione. Dario Ricci. Ma direi negativo proprio, Carlo, perché siamo al 17esimo e la Scozia ha siglato la sua seconda meta con il numero 19 Gray. C'è stata una splendida percussione sulla sinistra di Evans. Azzurri costantemente in ritardo nel tentativo di placcaggio. Evans che è fermato, è stato bloccato di fatto a due metri dalla linea di meta. Un gioco facile a passare il pallone a appunto a Gray, che ha realizzato la meta, e ora Godman al tentativo di trasformazione, il calcio realizzato. E allora, 16esimo di gioco a Murrayfield, 23 Scozia, 6 Italia. Il cucchiaio di legno, Carlo, è sempre più vicino. Il cucchiaio di legno si sta arrivando in testa, caro Dario. 64esimo, ripetiamo, e siamo in giusto e pesante svantaggio contro la Scozia. Dunque sono le 17.24, comunque 17.25, 25 come sapete come un set della pallavolo, ma è il momento del segno di Zorro. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di Sisley Treviso, e quando nel volley si dice Sisley è come parlare di ottima organizzazione, stabilità e spirito vincente. Basta un solo dato, 30 vittorie in 21 anni. Dietro a ciò c'è l'impegno della famiglia Benetton, che ha creato l'unica polisportiva italiana, la determinazione di Giorgio Buzzavo, presidente del volley, del basket e del rugby, e ultimo, ma non certo per importanza, di Bruno Darè, da 21 anni direttore generale del volley. In un'annata tribolata, la società ha deciso di esonerare Renan Dalzotto, l'allenatore brasiliano, che era arrivato per sostituire il tanto amato Daniele Bagnoli, con il quale la Sisley aveva vinto 24 dei 30 trofei della sua storia. A metà stagione, la scommessa sembra perduta e Buzzavo dice di sapere perfettamente perché. Sentite. La colpa primaria è sicuramente della società. Tu quando vinci 9 scudetti e vuoi vincere il decimo, non puoi fare la rivoluzione. Noi dovevamo fare la rivoluzione 2 anni fa della Sisley, però prima, sai, sognavo la stella. Adesso almeno so qualcosa in più, visto che non mi ero mai spiegato la campagna acquisti della Sisley, né mi capacitavo della conferma in blocco di atleti che sembravano senza troppi stimoli. Dopo la chiacchierata con Buzzavo, ho capito che si erano infilati in un vicolo cieco attratti dalla stella, il decimo scudetto. Una volta risolto il mistero, è tutto a posto, giusto? Neanche per sogno. Dopo l'esonero di Dalzotto, la Sisley è stata eliminata nella semifinale di Coppa Italia e dalla Coppa Europea. A questo punto è arrivata l'ennesima rivoluzione in corsa. Stavolta però è toccato a Bruno Darè, che sembrava intoccabile. Lui e Buzzavo erano una coppia solidissima e le decisioni prese di comune accordo, magari dopo discussioni infinite, erano la vera forza di questa società. Oggi non è più così. Dopo averle tentate tutte, la società arriva a colpire se stessa tradendo il passato. I risultati immediati non sembrano incoraggianti. Treviso in settimana ha perso malamente contro un'ottima Pineto, squadra però che lotta per non retrocedere. I trevigiani sono sembrati ancor più disorientati del solito e il resto della stagione rischia di essere una lunga agonia. Io credo che a Treviso sia tempo di decidere cosa vogliono fare il prossimo anno, che tipo di squadra allestire, su quali giocatori puntare e dove vogliono andare. E tutto questo non significa rinunciare al resto della stagione, ma dare segnali chiari del nuovo corso, proprio per salvare il salvabile. Dopo l'esonero di Bruno Darè sarà ancora più difficile, perché fino a ieri la continuità era uno dei tratti distintivi della società trevigiana. Oggi devono totalmente reinventarsi. A proposito, Bruno Darè potrebbe trovare velocemente un ingaggio a Modena, che vuole tornare a recitare il ruolo di avversario numero 1 di Treviso. Così la sfida si sposterà anche fuori dal campo di gioco e Treviso-Modena diventerà una gara di schiacciate tra giocatori e occhiatacce tra Buzzavo e Darè. Reduci da una straordinaria finale della World League di pallavolo. E adesso permettetemi di dire un grazie, un doppio grazie a Candido Cannavò che ci ha lasciato qualche giorno fa. Prima un grazie come atleta per l'attenzione e la passione che il direttore della Gazzetta ha sempre riservato al volley. Il secondo grazie è come giornalista. Dopo tanti anni è ancora viva l'emozione di essere stato nel cuore pulsante di uno dei più grandi giornali del mondo. E sempre grazie a Cannavò, che al termine della mia attività agonistica iniziai a collaborare regolarmente con la Gazzetta e a fare i primi passi nel mondo del giornalismo. Ciao a tutti da Andrea Zorzi. Noi ci sentiamo sabato prossimo su Radio 24 alle 17.25. Questo era il segno di Zorro di Andrea Zorzi. Intanto la Scozia va vicino ad un'altra meta che però non viene concessa complice l'intervento televisivo. Rimaniamo sul 23-6, naturalmente per gli scozzesi. Siamo al 66esimo di gioco. Altro aggiornamento flash dell'Edimburgo, torniamo da Dario Ricci. Sì, risultato cambiato, Carlo, quando siamo al 69esimo di gioco. Scozia 26, Italia 6. Pochi istanti fa c'è stata una punizione, ancora una volta trasformata da Patterson. Significativo il fatto che la Scozia, che pure si trovava giusto a un paio di metri dalla linea di meta azzurra, ha preferito capitalizzare il fallo per, diciamo, un'abituale ormai ostruzione, in questo caso di Perugini, in fase di mischia. Quindi 26-6 per gli scozzesi quando mancano poco più di 10 minuti al termine. E intanto ci sono anche messaggi: quando la smetteranno di dipingere l'Ital Rugby come una delle migliori squadre d'Europa? Non avremmo vinto neanche 10 partite in tutti i tornei. Ogni sabato da anni a questa parte vedi i nostri atleti a naspare e subire contro avversari più preparati e adatti a questo sport, scrive un ascoltatore da Milano. Beh, insomma, l'Italia a livello europeo è certamente tra le grandi, però a questo punto il problema è che siamo in regresso, stiamo camminando come i gamberi e sta per arrivare il cucchiaio di legno. È una squadra con mille problemi e anche con difficoltà di ricambio generazionale di atleti che sono lì da anni. È un'Italia che non fa meta, c'è un'Italia poi che non fa gol, ad esempio quella del calcio. Nel confronto, l'avrete letto da tutte le parti, che è impietoso, no? Dunque, serviranno un paio di gol della Juventus, senza prenderne naturalmente, un paio di gol della Juventus, ne servirà almeno uno dell'Inter a Manchester contro lo United, ne serviranno un paio della Roma. Facciamo 5 gol se vogliamo andare via senza supplementare rigore e troppe sofferenze. Peccato che nelle ultime due stagioni con gli inglesi abbiamo giocato 3 volte l'anno scorso, stiamo giocando ora per altre 3 volte, andate e ritorno, e adesso siamo 10-0, 10 gol subiti, 0 fatti. È un'Italia che non solo non fa meta, ma è un'Italia che fa una fatica maledetta a fare gol. Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Ciao Andrea. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Come vuoi pensare di metterne 5 quando in 2 anni ne hai messi 0? Davvero ci vuole, non so, un'epidemia di febbre gialla, come ho scritto in un pezzo l'altro giorno, nel Manchester, o che qualcuno si arruoli per la legione straniera, perché sulla carta non ci sono speranze di qualificazione per le italiane. Poi abbiamo ascoltato un sacco di dichiarazioni ottimistiche, sì, da parte di Mourinho, di Spalletti, di tutti gli juventini, ma Mourinho che, Andrea, scusa, sì. Mourinho che oggi hai tentato, prima sentivo la conferenza stampa, hai tentato di far parlare di Champions League anche tu, Di Champions League, volevo fare una, non parlo di Champions League, ma volevo solo, non parlo di Champions League. Poi però quando gli ha fatto comodo ne ha parlato, dicendo che l'arbitro è tornato sul discorso dell'arbitro che non gli ha concesso nulla. Vabbè, ma insomma, no, dicevo, l'ottimismo che è stato sparso a piene mani dai nostri allenatori dopo le partite di andata non ha delle basi concrete, purtroppo, perché per quello che si è visto nelle prime partite neanche stavolta dovremmo farci eliminare gli inglesi. Quindi sai, bisogna sperare in qualche miracolo, bisogna sperare nella prima grande partita di Ibrahimovic in Champions League nella sua carriera, bisogna sperare nel fatto che la Roma d'improvviso ritrovi il miglior Totti, o che la Juve abbia un Del Piero che segni su azione, insomma tutte cose che finora non si sono mai verificate quest'anno, e soprattutto affrontiamo avversari che giocano meglio di noi, mi sembra quello poi il dato principale. Sì. Le inglesi giocano proprio meglio a calcio, questo è il discorso. Giocano meglio a calcio, hai ragione, dobbiamo, non ci resta che sperare nelle stelle, negli indovini, nelle congiunzioni fortunate, sì, nella rinascita dei campioni, in tante cose che nel calcio ogni tanto succedono, però tutti insieme è un po' dura. Ecco, è quello, sì. No, sì, io concordo con quanto scrivi tu e con quanto scrive anche Alberto Cerruti sulla Gazzetta. Scrive così: anche se favoriti dagli stranieri, i successi dei club inglesi sono la regola, i nostri l'eccezione. Loro sono più bravi a giocare col pallone, anche tra Natale e Capodanno. Noi siamo più bravi a giocare con le moviole, anche a Ferragosto. Allora continuiamo così, con la caccia agli arbitri, ai loro assistenti, a colpi di centimetri e millimetri, perché è più facile criticare la cornice che dipingere un bel quadro. Mi sembrano sì, parole sante queste. Veramente, ma davvero il nostro è un calcio che si è imbarbarito in questi anni in un modo incredibile, mentre altrove si fanno dei progressi, da noi si regredisce. Davvero, sembra un argomento un po' così capzioso, ma davvero le inutili discussioni sugli arbitri, sui centimetri, sui millimetri, abbassano il livello di tutto, certo, e di tutti? Cioè, ci si concentra sui dettagli, davvero, e non si va al sodo. Qui i club sono indebitatissimi, i grandi campioni non vengono più in Italia, fateci caso, non viene più nessuno a giocare in Italia, a meno che non si tratti di campioni al tramonto. I giovani non vengono quasi mai utilizzati, insomma è un disastro il calcio italiano, ma sempre di più. A livello internazionale, fateci caso, se non fosse stato per il Milan, che è un club molto particolare anche nel contesto italiano, ma l'Italia in Europa non ha più un ruolo di primo piano da anni, Milan a parte, sì, quindi sai... Io credo anche che quando parliamo di coppe parliamo anche di Alea, no? Parliamo anche di, appunto, di stelle. Noto anche come pure le spagnole, Spagna dai miracoli, la Spagna campione d'Europa di tutto, di ogni sport, la Spagna che fa gol a differenza dell'Italia, meta no, però gol li ha sempre, sì, fatti, certo. Una Spagna in difficoltà nelle coppe a questo giro, eh? Sì, hanno perso molte squadre in Coppa UEFA, Real Madrid e Barcellona hanno stentato, io credo che sia anche un problema magari di forma, che non è al top in questo periodo, ma il livello medio comunque del calcio spagnolo rimane superiore a quello italiano, quindi la rincorsa dobbiamo farla anche su di loro, secondo me, e tra un po', guarda, anche sui tedeschi, che stanno organizzando, sì, anno dopo anno, una Bundesliga sempre più competitiva, vero, con squadre che stanno crescendo molto, cioè, se ne è accorto anche benissimo il Milan giovedì scorso con l'undicesima del campionato tedesco, sì, uscita di scena, quindi non vedo proprio spiragli di ottimismo per il nostro calcio, magari sarò un negativo io di natura. Sì, non ti sento molto ottimista, Andrea. No, no. Ma analizzando le partite delle italiane, a San Siro quella dell'Inter la parte migliore è stata il risultato, lo 0-0 in valore assoluto non è male per un'andata di Coppa, a leggerlo con attenzione, non è un cattivo risultato, però se parliamo, no, se parliamo di quello che si è visto in campo, non siamo messi benissimo. Una brutta Roma, una pessima Roma contro un Arsenal piccolo, come raramente l'avevo visto nelle ultime stagioni. La Juventus, secondo me, avrebbe dovuto capitalizzare una condizione fisica pessima del Chelsea. Infatti. E invece tra due settimane troverà un Chelsea con due settimane in più di cura Hiddink e con due settimane in più di allenamenti nelle gambe. La Roma al ritorno farà fatica perché l'Arsenal sugli spazi è terribile e magari recupererà anche qualche giocatore che a Londra non c'era. L'Inter a Manchester, sì, in teoria è il risultato migliore delle tre, però vallo a fare un gol a Manchester senza subirne più di uno. Sì. È molto difficile come impresa, soprattutto vedendo quello che è successo all'andata, cioè, certo, i valori in campo sono emersi in un modo piuttosto imbarazzante per l'Inter, i valori del collettivo e anche delle individualità, quindi sai, veramente molto difficile, molto molto difficile. Resta che sperare nel cul di Mu dopo il cul de sac. Sì, perché poi alla fine, come no, serve anche quello, serve anche quello, ci mancherebbe altro. No, come ha scritto giustamente il collega Fabio Monti del Corriere giorni fa, Mourinho è fortunato come Napoleone, o forse lui stesso si crede Napoleone, quindi è ancora più facile essere fortunati. Quindi no, lui sicuramente, si diceva l'altra sera, se in panchina ci fosse stato Mancini in Inter Manchester, finiva come all'Inter Alaves con i seggiolini in campo dei tifosi. Ho l'impressione anch'io. Senti Andrea, per chiudere sul disastro Milan che prima hai citato en passant, la mia impressione è che si stia perdendo, che in questa stagione si stia perdendo un anno nella ricostruzione della squadra, che non vuol dire ricostruzione a livello, poi lo decidiamo, ne parliamo, in che modo parliamone. È chiaramente una squadra da ricostruire, magari anche con una filosofia differente, perché no? Però si sta perdendo un anno. Si sta perdendo e si è iniziato a perdere questa stagione quando si è deciso per l'ingaggio di Ronaldinho, diciamo. Cioè, insomma, l'ingaggio di Ronaldinho è quello che dà un po' un senso e che ci fa capire qual è stata la filosofia che ha governato il Milan all'inizio di questa stagione, ed è una filosofia che per adesso i risultati hanno detto che è perdente, e lo è a tutti gli effetti. Cioè, bisognava puntellare la squadra, rafforzarla fisicamente e anche come carta d'identità, e non è stato fatto. È stata scelta la via del maquillage, sì, anche di un certo livello, ma non serviva maquillage, servivano interventi incisivi. Poi che il Milan possa non essere in grado di compierli questi interventi incisivi, perché poi ci sono problemi di bilancio, è anche un altro discorso. Però Ronaldinho, se è vero quello che ci dico, è costato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Certo. Magari era una cifra che poteva essere spesa in altro modo. Spesa in un altro modo. Andrea, in modo secco, se Ancelotti domani perde, rischia? Sì, rischia più che altro, perché bisognerebbe a quel punto dare una scossa fortissima, e l'unica sarebbe quella di esonerare un allenatore che è lì da 8 anni, per togliere qualsiasi alibi ai giocatori. Però sì, io credo che rischi, sì. Grazie Andrea, buon lavoro. A voi, ciao. Grazie ad Andrea Sorrentino. Claudio da Genova, un ascoltatore primo di oggi, poi c'è Cristiano da Treviso. Claudio, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io mi riferivo a quella cosa che ha detto il suo collega adesso. Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, sì. Sì. Lui ha parlato del fatto che qui in Italia si parla di moviole, eccetera. Infatti è così, io seguo poco il calcio proprio per quello. Però io darei un po' una buona dose di responsabilità ai giornalisti di questo. Cioè, i giornalisti e i suoi colleghi di televisivi ormai non parlano più di calcio, parlano di righe, di centimetri. Sono loro che hanno instaurato questo tipo di commento televisivo al calcio. Sì, però Claudio, io penso sempre che ci sia la ben nota e famosissima libertà di telecomando. Se a uno non interessa, a me non interessa vedere, non me ne è mai importato nulla. Se lo fanno vuol dire che alla gente interessa questo modo anche di parlare di calcio, evidentemente, io credo. Catturano la gente con queste cose, non catturano più la gente facendo dei commenti come si sentivano un po' di anni fa. E io torno a ribaltare la frittata, perché la gente si fa catturare. Io ad esempio la moviola non interessa, non me ne importa nulla, mi limito a vedere le partite della domenica e a commentare quello che vedo sul campo. Noi siamo, purtroppo abbiamo questa forma mentis, ma non lo vediamo soltanto nella... quando parliamo di calcio lo vediamo anche nei campetti di periferia, la vediamo nei campetti di periferia questa subcultura, se mi passa il termine, o no? Sì, ma certo, ma infatti è così, però non, io penso che buona responsabilità sia del tipo di giornalismo che viene fatto, senza voler dare colpe a nessuno. E io senza difendere nessuno, mi limito a manifestare il mio pensiero, ecco. Claudio, grazie, torni a trovarci. Prima di andare a Treviso da Cristian, andiamo a Edimburgo da Dario Ricci. Sì Carlo, è tempo dei fuochi d'artificio per i tifosi scozzesi, perché è appena finita la partita, Scozia 26, Italia 6, uomo del match lo scozzese Simon Danieli dell'Ulster, quanto mai meritato il titolo e il riconoscimento, visto che è stato lui che a spaccare in due la partita con la meta che di fatto ha sancito l'annuncio scozzese nel primo tempo. Nel secondo tempo si è rivista l'Italia, che tante volte abbiamo visto le sconfitte nelle nazioni, cuore, orgoglio, ma poco rugby, francamente, e quella che si chiude qui a Madrid dalla serata amara, credo possa dire così, se non altro perché quello che ha fatto vedere la Scozia per larga parte della partita non è sembrato poi così differente dal rugby messo in campo dagli azzurri. Però gli scozzesi hanno capitalizzato le loro occasioni, hanno utilizzato al meglio due calciatori come Peterson e Godman di altissima qualità, e hanno comunque utilizzato le poche risorse offensive che avevano, in particolare Danieli, e poi ancora nel finale le percussioni centrali di Ivan. distanze. Tutto questo nel campo degli azzurri non si è visto, non a caso lo sottolineavamo, i punti che abbiamo messo nel carniere sono, il nostro tabellino è stato aperto da quell'estemporaneo drop di Capitan Paris, che è un po' il sintomo di una squadra, certo, che forse di un rugby in difficoltà, perché non c'è dubbio, quanto mai ortodosso. Non c'è dubbio, se Paris si mette a fare drop e sono tre dei sei punti che mettiamo sul tabellino, l'altro è naturalmente un calcio piazzato. Questa è un'Italia che non fa meta, e oggi lo ha confermato, è un'Italia che non fa gol. Mi domando perché nel calcio, nel rugby è fin troppo chiaro, perché mi sembra siamo scarsi, questo è il senso. E a questo punto metterei un po' in discussione, vabbè che è una moda tutta italiana, però ci sta a questo punto mettere in discussione anche la guida di Nick Mallet, perché ci risiamo, no? Sarà anche il più europeo degli allenatori dell'altro emisfero, ma resta un allenatore dell'altro emisfero, come Johnston, come Kirwan. Kirwan che peraltro ha avuto il merito, se non altro, di portare molti di questi giocatori in nazionale, ancora giovanissimi. Questo è un merito indiscutibile di John Kirwan, però con gli allenatori dell'altro emisfero è un rugby diverso, concentrato sul fisico, sulla potenza fisica, sulla distruzione del gioco, sulla difesa, e non sappiamo veramente più attaccare, non riusciamo a trattare la palla, siamo una squadra imbarazzante in fase offensiva. Io ringrazio Dario Ricci da Marefield, adesso andrà a sentire, a respirare l'aria degli spogliatoi, che immagino di delusione come quella di Paris, veramente furibondo. L'ho visto girarsi, sbuffare, faccia cattiva di Paris per questa pessima prestazione dell'Italia. Cristian Treviso, buonasera. Sì, ciao. Ciao. Beh, buonasera, scusa di ciao, ma penso che ormai siamo qui. Va benissimo. Ascolta, scusa se mi vanto di questo, di essere di Treviso, ma credo che ormai Treviso sia la città natale del rugby qua in Italia. Mi ha già un po' rubato tutti gli argomenti con questo discorso precedente. Un po' ti devo contraddire, perché non è Mallet, secondo me, CT più europeo dell'emisfero sud, ma secondo me rimane, guardiamo un po' indietro, Coste. Sì. Secondo me Cristian, sentiamo, sì. Cristian, sta lì, sentiamo insieme Canale con la 7. Sì. Di insomma ringraziare il pubblico, perché comunque anche nei momenti difficili ci sta dietro, quindi questo è importante. La tua faccia l'avevamo lasciata contro l'Irlanda praticamente sfigurata, non è che esci meglio oggi? Questo vuol dire mettere tutto in campo, ma perché questo non basta per quest'Italia? No, penso, sicuramente l'abbiamo visto anche nelle due partite scorse. Mettercela tutta a volte non basta, penso che dobbiamo rivedere tanti aspetti del nostro gioco. Sicuramente continuiamo a fare tantissimi errori e questo si paga, l'abbiamo già visto nelle altre partite, come dicevo prima, e penso che dobbiamo lavorare su questo punto qua. Voglio la tua sincerità, quella che ti riconosciamo sempre. Questo è un gruppo unito, un gruppo che ci crede ancora, o certe scelte o certi numeri di questa spedizione cominciano anche a far scricchiolare una convinzione in un progetto che viene a mancare? No, sicuramente il gruppo è sempre unito, anzi direi più unito di prima. Sicuramente le cose in campo non stanno andando nel miglior modo, però il gruppo non si può dire niente, continua a essere unito e noi continueremo a lavorare per tirare su insomma sto momento qua. Ragazzi, il gruppo sarà anche unito, ma questi danno l'impressione proprio di non crederci più, ma si vede, cioè è il linguaggio del corpo quello che parla, se avete visto la partita di oggi. Prego Cristian, stavamo chiacchierando. Ti stavo dicendo, ho giocato a rugby abbastanza tempo, ho giocato tanti anni a rugby. Sì. E secondo me quello che manca, cioè lo vedi proprio quando scendono in campo, scusa il mio termine, ma secondo me manca proprio il sangue negli occhi. Cioè, io che ho giocato, devi avere una meta finale, dire io quello là lo devo buttare giù. Cioè, hai tante. Il rugby non è un calcio, il rugby è una roba più forte. Ma perché stiamo tornando indietro allora, Cristian? È una scelta di CT, secondo me. Cioè, la stessa, non è la stessa squadra, ma contro la Scozia, ad Edimburgo, non so se gli ricorda Berbizier cosa è riuscito a combinare. Là. Sì, me lo ricordo perfettamente cosa è riuscito a combinare Berbizier. C'era un troncon che... Bravo, c'era il leader. Ma cosa stiamo facendo qua? Stiamo facendo la storia, ragazzi, ma... O dopo la Coppa del Mondo Cristian, posso dire che Troncon in campo o Troncon in panchina con l'auricolare, ormai ex giocatore, fa una certa differenza? Posso dirlo? No, secondo posso me dirlo... troncon con l'auricolare, scusa, ma non c'entra niente. Cioè, fa tanta scena, ma è bello vederlo, ma fino a là... Io, per carità, da buon trevigiano conosco lui, conosco suo papà, conosco... Sì, sì. Però... ci manca un sacco come giocatore. Ci manca un sacco come giocatore Troncon, ma ci manca che... non solo per le qualità tecniche, ma per la leadership che aveva, per la capacità di trasmettere anche quel sangue agli occhi di cui tu stai parlando. Devi trasmettere la grinta agli altri. Devi dirgli, ragazzi, andiamo di là adesso, buttiamo il pallone di là. È tutto quello che è sopra... bisogna buttarlo giù. Sì, Cristian, però non è solo io non credo, sono d'accordo, ma non credo sia soltanto una questione di cattiveria che l'Italia sembra non avere quasi neanche più, perché mi sembra appunto una squadra non che non ha il mordente. Io credo, adesso ironizzando un po', se ci fosse il CT Voto che fa del palaspicchi Dan Peterson, sì, il coach si metterebbe lì. Ragazzi, mamma mia! Prendiamo lui, americano, con rugby c'entra poco, però insomma, magari lo adattiamo. Già ci sono stati in passato esperimenti tutti falliti di questo tipo da Velasco che voleva diventare allenatore di calcio, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie Cristian, è tornato anche Giacomo Bagnasco, ci sono altri ascoltatori poi in linea. Giacomo, hai sentito Eccoci quanto qua. Si dice? Insomma, mi sembra, diceva Cristian, un'Italia a cui manca il sangue agli occhi. Io aggiungo un'Italia che, leggendo il linguaggio del corpo, non sembra, al di là delle parole di facciata di Gonzalo Canale, non sembra crederci più nemmeno molto in questo momento, in questa spedizione, in queste Sei Nazioni, nella possibilità di invertire il trend. Sì, probabilmente quello che si poteva fare è stato provato, sono state cambiate magari anche le tattiche, il risultato però non muta perché la squadra sostanzialmente non ha un gioco e per questo sembra di essere anche tornati indietro. Ecco, il pallone viene trasmesso con molta lentezza da un giocatore all'altro, i tentativi di penetrazione individuali sono troppo prevedibili, i calci spesso si sbagliano e gli avversari, in fin dei conti, se non si esaltano, quantomeno sanno approfittare di queste nostre debolezze. La Scozia oggi, vincendo 26-6, ha colto contro l'Italia il suo miglior risultato nel Sei Nazioni nei confronti degli azzurri. Due anni fa avevamo vinto di 20 punti a Murrayfield, 37-17, oggi abbiamo perso di 20 punti, mi pare che sia poco da aggiungere, se non che questa è la seconda meta nella quale l'Italia non segna è la seguita nella quale l'Italia non segna neanche una meta. Ragazzi, non segniamo più, ma sul serio. Grazie Giacomo, ci sentiamo domani sera per tornare sui temi di questa giornata del Sei Nazioni, non solo dell'Italia. Grazie Giacomo Bagnasco. Grazie a tutti. Io vorrei sentire la voce, prima di chiudere, di due ascoltatori che sono in linea molto rapidamente. Daniele da Ferrara, Angelo da Roma. Daniele, buonasera. Buonasera. Io vado controcorrente, lo dico subito, ho sentito sangue agli occhi, questa è la nostra nazionale. Posso dire con un po' di presunzione che prevedevo un po' questo andato, nel senso che non abbiamo una gran nazionale. Però ripeto, vado controcorrente. Qui siamo maltrattati, oltre che avere una squadra scarsettina, e vi dico, ho arbitrato circa 25 anni, una quarantina d'anni che sono al rugby, non voglio fare il vittimista, proprio non fa parte del mio modo di comportarmi, sì. Però ricordatevi, tra di loro questi anglosassoni non si fanno del male. Questo arbitro, appena l'ho visto, dico, mamma mia. Qui comincia male, già con l'arbitraggio, ma non faccio, ripeto, vittimismi. Guardate tra le righe, la prima meta c'era un in avanti palese, sì. Punisce i nostri in avanti e non i loro. È raffinato, facciamo un drop addirittura con Parisse, una cosa incredibile. Subito dopo ci becchiamo un calcio di punizione, subito dopo inesistente. E sai, sono piccole cose, piccola nazionale, poi questi ci bastonano in questa maniera. Ragazzi, dobbiamo accontentarci dei soldi che prendiamo, io sono chiaro. Che ne prendiamo con questo Sei Nazioni, non c'è dubbio, questa è la regola. Dubbio. Queste cose, dubbio. Oltretutto, io ho avuto dei contatti, non ero in Scozia, ma avevo dei contatti con uno che era là, mi è costato anche un sacco di soldi. E lui è una persona anche in gran gamba dal punto di vista del leggere tra le righe, concordava pienamente con me. Addirittura l'ultimo messaggio è stato questo: non abbiamo giocato male. Purtroppo dobbiamo perdere anche al di là di una sconfitta anche con l'Irlanda meritata. Sì, sì. Guardiamo tra le righe, mettiamoci lì, guardiamo, questi qui sono maliziosi. No, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio di dire, però anche questi però sono maliziosi. Però non giochiamo, su queste sottigliezze sono d'accordo, però giochiamo male a rugby, anche questo è indiscutibile. Angelo da Roma, rapidissimamente. Buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io rapidissimamente dico che è una cosa fisiologica. Noi abbiamo alti e bassi. Io insegno rugby, ho giocato a rugby e alleno una squadra di rugby per bambini. Sì. Io dico solo una cosa, abbiamo un trend di bambini che vengono a fare rugby sempre in aumento. Sì. Sono 2 anni che abbiamo istituito un'accademia. Sono varie regioni che hanno accademie regionali. Abbiamo ragazzi bravissimi in under 20, c'è Petillo, c'è Bocchino, sì, che l'altro anno ha fatto un grande campionato, un grande under 20. Sì. Io dico di avere pazienza. Quello che manca a noi non è il sangue, gli occhi, non è la forza, non è il coraggio, perché ce l'abbiamo tanto anche da vendere, è la tecnica. Bravo, sono d'accordo. Si arriva con anni. Purtroppo siamo in chiusura di trasmissione. Domani sera riprendiamo questi discorsi perché abbiamo una finestra sul rugby anche domani. Questo è indiscutibile. Giochiamo male a rugby, ma soprattutto stiamo tornando indietro. Ci fermiamo qui noi. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunta in regia. Vi lascio al GR. Torniamo domani pomeriggio alle 17. A domani. A tempo di sport.